Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Il volo delle oche, in viaggio con la scienza. Buongiorno ascoltatori, vent'anni dopo Bhopal, finalmente un rapporto di Amnesty International riprende tutte le ricerche che sono fatte sulla salute dei 100.000 superstiti che però si sono ammalati, ovviamente non su quelle di 18.000 che sono morti al momento. L'altro rapporto che è uscito ieri e che vi segnalo è quello che è stato commissionato agli esperti dal Dipartimento statunitense per l'energia sugli esperimenti detti di cosiddetta fusione fredda, proseguiti in questi 15 anni. Le due commissioni di fisici che sono stati nominati dal questo Ministero per l'Energia degli Stati Uniti non si sono messe d'accordo sulla presenza di reazioni nucleari a bassa energia, ma sul fatto che alcuni esperimenti vanno proseguiti, quello sì. Il rapporto è piuttosto interessante, lo trovate sul sito science.doe, no? Department of Energy.gov. Dei due premi Descartes che finanziano un progetto presentato da un gruppo europeo, uno è stato assegnato ieri a una ricerca sui mitocondri, strutture della cellula dotate di geni propri che ereditiamo dalla madre. Del gruppo fa parte Massimo Zeviani, molto brillante, e giustamente nella motivazione del premio gli fanno i complimenti. Lui è dell'Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta a Milano. L'argomento riguarda la medicina, un giorno se ne occuperà Michela Vuga in Essere Benessere. Invece ieri vi dicevamo dei premi Curie di cui nessuno ha parlato, assegnati il mese scorso a singoli ricercatori, non a gruppi intereuropei, tra cui, buongiorno, Benedetta Ciardi. Buongiorno. Al Max Planck Institute per l'astrofisica a Garching. Lei, dunque, si parla di astrofisica, si occupa dell'universo al suo inizio, diciamo, e in particolare dell'evoluzione del gas all'interno dell'universo, di come questa evoluzione viene diciamo determinata dalla radiazione prodotta dalle prime stelle, dalle prime galassie. Mm-hmm. Questo in poche parole quello di cui mi occupo. Che è un tema abbastanza specifico, però abbiamo notato che sul sito di Arcetri, dell'osservatorio di Arcetri, cioè l'istituto di astrofisica che è localizzato lì, dove gli ascoltatori sanno che ogni tanto andiamo perché c'è Pacini, no, che organizza cose anche per noi. Sono laureata ad Arcetri, ho fatto il dottorato ad Arcetri. Ah, ecco. E lì c'è proprio un gruppo di cosmologia e sul loro sito hanno messo un saggio che lei ha scritto insieme a un collega della SISA Trieste, che fa proprio una rassegna di, diciamo, della teoria ma anche dei dati rispetto all'inizio dell'universo, e dice anche i problemi irrisolti. Allora, nel caso noi avessimo, come abbiamo effettivamente, degli ascoltatori un po' giovani che stanno decidendo magari io faccio astrofisica, non è che darebbe due suggerimenti, poi io dico a loro dove possono procurarsi questo vostro articolo? Diciamo che pronto? La sento benissimo. No, ecco, perché io non la sento molto bene. Ah, le alziamo il volume, non si preoccupi. Vada pure. Ok, allora, diciamo che l'argomento specifico di cui mi occupo io recentemente ha attratto moltissima attenzione, soprattutto dopo osservazioni della radiazione di fondo da parte del satellite WMAP, che diciamo per la prima volta ha dato delle informazioni proprio osservative, quindi quantitative, su questo processo che, diciamo, in gergo scientifico viene detto della reionizzazione, di cui mi occupo io. E quindi questo è diventato, diciamo,